volta. A cura di Cristina Carpinelli. Non scevra della dimensione etica, anzi, contraddistinta proprio da essa, la bellezza ha così un legame profondo con la bontà. Questa frase contenuta nel Timeo di Platone è forse la frase che meglio racconta Paolo Benvenu, un musicista, cantautore di grandissimo e raffinato talento, alla continua ricerca della bellezza che nasce da percorsi tortuosi e spesso dolorosi. Questo che sentite è Nello spazio profondo, uno dei brani contenuti nel suo ultimo album Heart Hotel. Ogni muscolo del corpo teso verso l'impossibile, e l'impossibile è resina sulle labbra calde. Paolo è figlio, come dirà lui stesso, del sottoproletariato milanese, e cosa significhi essere parte di quel mondo lo sa bene chi lo ha vissuto, nel bene e nel male. In effetti si pensa che dal punto di vista della generosità ci esisto, ecco. Come sai, gli esseri umani non possono molte volte, no? Cioè, si ha sempre un po' la tentazione di esistere, per dirla alla Cioran, ma io invece in generosità alle piccole volte anche nello sguardo esisto. Questa è una cosa che è un bel raggiungimento, se penso alla mia partenza misera, forse sono molto felice. Perché è una partenza misera, dici? Ma perché è una cosa prettamente familiare e di Io sono nato a Milano alla metà degli anni 60, perciò però in una famiglia sottoproletaria, e il senso era quello della dedizione al lavoro, cosa che peraltro mi è rimasta, ed è una cosa che, questa magari è un'accezione positiva. Invece la miseria riguardo allo sguardo verso il mondo e alla paura, no? E perciò di conseguenza, non avendo sguardo, hai paura di ogni cosa. Insomma, questa mi sembra una partenza un po' misera, no? Perciò per riuscire ad avere uno sguardo, un pensiero un po' più lungo, ho dovuto prima di tutto divincolarmi da questo tipo di aspetto. Hanno tagliato il grano, ci son rimasto dentro, impasto pane e sangue, senza rendermi conto, passato lo stupore, mi rimarrà il disgusto di vivere a ogni costo senza coglierne il senso. Cosa è la vita se non amarsi? Cosa è la vita? Certe distanze in alcuni contesti possono essere pericolose. Lo sa bene chi da ragazzino, invece che giocare a calcio, stava a guardare gli alberi. Però, come in un incantesimo che frequentemente si realizza, arriva sempre qualcosa in soccorso. Nel caso di Paolo Benvenu, la musica e anche un dolore, quello della morte del padre, saranno la leva per affrancarsi da un certo mondo senza mai lasciarlo, senza mai rinnegarlo, portandoselo dentro con amore. Sono ovviamente, come tutti, ho incontrato delle difficoltà. Nel caso penso che sia stata la scomparsa di mio padre quando ero ancora ragazzo, quella cosa mi ha spinto ancora di più verso una dimensione, per dire leggerissimamente, più profonda, ecco. E quanti anni avevi quando è successo? 17, perciò ma devo dire, cioè non è una cosa particolarmente tragica, uno di noi ha le sue scomparse, i suoi lutti e anche, no, proprio in questo ognuno ha una modalità diversa nel rialzarsi, no? Dalla mancanza, dalla distanza, ecco, di una presenza magari importante, magari non così importante nello specifico, ma profondamente importante, quasi più nell'inconscio, no? che nella vita reale, nel conscio, nel concreto. Perciò niente, quello che è successo è che da lì ho incominciato a studiare, ecco, semplicemente a studiare i pensieri degli uomini e a innamorarmi dei pensieri degli uomini, degli esseri umani. E perciò sono un rivoltato, un rinestatore di pensiero altrui, un disjockey delle sensazioni che leggo e che vedo nei film, che leggo nei libri, insomma, penso come un po' tutti. Ma tu prendi, quando guardi, quando osservi anche la natura umana, analizzi, cioè sei un entusiasta, uno che si fa trascinare dalle cose belle, o tendi anche a guardare come dire, l'irrimediabile bruttezza che c'è in alcune persone? Ma in realtà no, siamo proprio veramente intrisi di mostruosità e di sublime. Ecco, questo mi sembra una cosa che ho capito tanto tempo fa, in me soprattutto, no? Proprio che nelle piccole cose, anche nella rabbia adolescenziale non sfogata, nelle piccole cose che specialmente per un ragazzo, per un giovane uomo, per un giovane essere umano, sono anche un carburante di un certo tipo, che so, l'invidia verso terzi, la violenza latente verso terzi. Ecco, insomma, sono stato un mostro come tutti, insomma. Però alle volte invece devo dire che io mi faccio spesse volte trascinare dal senso di vitalità dell'altro, e questo mi contagia e fa in modo che in una maniera o nell'altra anch'io, pur essendo un orso fondamentalmente molto riservato, mi faccio portare da questa vitalità e anch'io divento perciò una persona vitalizzante, no? Dipende dai contesti, ovviamente. Ecco, a proposito di essere orsi, è proprio legato a questa tua natura il fatto che quando hai iniziato con un gruppo, quindi con un gruppo di amici, cioè hai lavorato musicalmente, dico, quindi parlo di Scisma. In realtà è così, cioè in realtà io non penso di essere, voglio dire, non sono un solista, non lo sono nemmeno come pensatore, ovvero sono come tutti penso in rapporto all'altro, e l'altro può essere ovviamente l'altra persona o il circostante, no? Questo mondo così bello che ci è stato donato, insomma. E perciò io mi sento sempre parte di un coro, perciò sia con gli Scisma che con le varie gradazioni dei Paolo Benvenu, che sono un gruppo di cui io sono magari, che so, colui che sceglie la cornice, ecco, fondamentalmente del dipinto. Se fossimo un collettivo pittorico dove io scelgo la cornice e che ne so, il tipo di pennello, ma fondamentalmente sono parte di. E questo mi sembra, cioè è proprio una mia specifica, ecco, sono molto riservato, sono molto solitario, però quando devo mettermi in opera, in impresa, come direbbe Michelangelo, non sono un solista, sono un portaborracci fondamentalmente. Ecco, è da qui quello che dico spesso, che io ho più che il talento della fiamma, ho il talento del bove, no? Cioè sono un aratore di campi, non certo una persona che ha un essere umano che ha, insomma, un'immaginazione così brillante. Sono uno che si impegna, è una cosa diversa. Beh, però questo non è vero, perché poi anche l'ultimo album è stato molto apprezzato dai critici, poi dal tuo pubblico, ma anche dal pubblico in generale, soprattutto perché c'è una ricerca musicale e secondo me anche nei testi, insomma, eccelsa. E tra l'altro, ecco, questo. Grazie. Mi vergogno un po', grazie. Davvero. No, anche per introdurre quest'altro tema, cioè nel senso che per arrivare a pubblicare un album così, così bello, quanto ci si deve lavorare? Perché io ho un po' l'impressione che non sia una casualità, no? Che poi gli album più belli abbiano dietro un lavoro lungo e un tempo lungo che però le grandi case di distribuzione e di produzione, certo, non concedono, insomma. Ma è chiaro, no? Nel senso, diciamo, parto da questa considerazione che è molto giusta. In primis c'è veramente da fare a questo punto, magari già da 30 anni a questa parte, anche da 40 anni a questa parte, ma c'è proprio da distinguere, sono due campionati diversi, sono due campi diversi, no? La musica di intrattenimento è una cosa, e ovviamente su quello si basano le grandi produzioni, le grandi distribuzioni, le grandi multinazionali del disco. Insomma, adesso devo dire con mio sommo piacere avendo sempre puntato su cose momentanee, sono falliti anche loro ed è bellissimo per me, perché vuol dire che avevo ragione quando ai tempi con gli Scisma eravamo alla EMI, dicevo loro dateci del tempo, dateci una media scadenza. Perché le cose nel mondo in generale non succedono mai repentinamente, c'è sempre una preparazione, ma parlo anche dei disastri naturali, cioè non è che un terremoto arriva così, arriva dopo una serie di assestamenti che magari durano ere. E perciò quello che mi viene da pensare è che appunto c'è da fare questa distinzione tra musica di intrattenimento e musica di pensiero. Guarda, parafrasando Pasolini, mi viene da pensare lui parlava del cinema d'arte, del cinema di intrattenimento, io parlo di musica amorosa, musica d'arte e musica di intrattenimento. Musica di intrattenimento è una cosa bella, funziona, le persone sono contente se riescono a respirare un po' di più, no? Rispetto alla loro vita normale, e questo perciò ha anche, voglio dire, per certi versi la musica di intrattenimento può avere addirittura una volontà nobile, se vogliamo andare a vedere. Io invece sono più uno scrittore di romanzi storici, perciò quando scrivo dischi ho bisogno che ci sia sedimentazione, ho bisogno che ci sia stratificazione, non necessariamente nel pensiero, anzi, specialmente Heart Hotel è un disco che non ha niente a che vedere col pensiero, erano anni che non mi trovavo bene con me stesso per una serie di ambiguità che mi portavo dietro da sempre, e non ho fatto nulla finché queste ambiguità sono uscite frase dopo frase, accordo dopo accordo, ma non ho scritto niente. Questo è un disco dove non c'è scrittura, cioè mi sono messo davanti al microfono e sono venute fuori queste cose senza che io le abbia scritte, tant'è vero che è una modalità completamente diversa. Io normalmente scrivo molto e poi da lì vado a trarre, no? Invece in questo caso tutto quello che c'è fa parte di un treno di pensieri conseguenziali della mia esistenza. Ci fermiamo per qualche istante, torniamo subito dopo. La prima volta. La prima volta. La musica di Paolo Benvenu è sublime, tocca quella parte in fondo a noi che apre mondi trascorsi, proietta verso il futuro, ci lascia scossi nella sua bellezza. Non capita spesso di incontrare un talento del genere, un uomo cresciuto alla periferia in cui tutto poteva essere e non è stato nel senso che ci si immaginava, perché Paolo ha scelto di coltivare passioni che in certi contesti sono faticose solo a dirsi, come la musica. Poi, una volta affermatosi come musicista, ha aiutato altri. Paolo Benvenu riconosce la bellezza al volo e la premia ad ogni costo. Da produttore ha sostenuto e guidato artisti come Cristina Donà, North Garden, del quale parla così. Lui è proprio un talento stellare, viene proprio da è siderale, nel senso proprio che viene dagli astri. E perciò come ho fatto? Nel senso, vedi una cosa del genere, te ne rendi subito conto. E per come sono fatto io mi è venuto da dire, guarda, io non so se qualcuno, se hai già fatto un disco, se qualcuno ti ha mai fatto fare un disco, eccetera, io mi metto a disposizione, perché è un meccanismo di bellezza e la bellezza non si può fermare, se tu la vedi e la incontri e la senti in maniera così specifica se per puro caso hai la possibilità di inoltrarla verso gli altri, perché non darle una mano, non dare una mano a questa bellezza. E così ho fatto, non c'è nulla di particolarmente generoso e trascendentale, l'ho fatto quasi per egoismo, nel senso, se vogliamo vedere, nel senso che caspita, di fronte a un fenomeno così marcato sarebbe stato davvero un un peccato non aiutarlo, questo fenomeno così marcato. Perciò è stato molto semplice per me, perché in quel progetto, come in tutti gli altri, devo dire, sono entrato proprio con tutta la vitalità che potevo, ecco, questo mi viene da dire. Perciò senti sempre strano aver di fianco uno che crede a ciò che fai più di quanto ci credi tu, è molto difficile. È fantastico, no, è un ruolo che si sta, insomma, che trovi sempre meno, soprattutto con questo slancio, con questa voglia di condividere, no, in un'epoca in cui sembra che si condivida tutto, in realtà poi è... Oh sì sì, sono perfettamente d'accordo con te, difatti, comprendi che siamo vittime ormai da una settantina d'anni di ora, non è che voglio sempre andare a tornare a Pasolini, ma del resto di pensatori italiani così acuti su alcune cose è difficile trovarli, no? È difficile trovarne. E la perdita del sacro di cui parlava Pasolini, io non la vedo né in senso religioso né in senso, cioè lo vedo in senso umano, ecco. E perciò quello che sta succedendo adesso è che siamo vittime di una sorta di disattenzione di massa. Che ovviamente Pasolini aveva predetto, no? All'inizio degli anni 60, che adesso insomma è prettamente conclamato. In realtà c'è tutta questa grande possibilità di comunicare con chiunque, e poi però nella fattispecie si comunica tra estranei, no? E questo è un grosso male, mio modestissimo parere, anche perché, se non vorrei dimenticarmi della storia del secolo veloce, cioè in realtà c'è stato, no? O quantomeno, guarda, questo per certi versi può partire anche da molto prima, dall'illuminismo, ma dall'umanesimo, insomma c'è stata tutta una ricerca dell'identità di ognuno, disintegrata in 20 anni, ed è diventata invece una ricerca di appendici, no? Il telefono più veloce, l'automobile, il secolo scorso più veloce, insomma, ed è incredibile, perché secondo me nel momento in cui un essere umano si cosparge di appendici verso l'esterno, ha completamente perso il senso e perde lo sguardo verso l'interno, e perciò è anche per questo, no, che mi sento veramente anacronistico in questo momento storico, ma tant'è, cioè voglio dire, non sono né il primo né l'ultimo, per fortuna. Quando tutto è nudo, quando tutto è nudità e pornografia, il fatto che tu sia pudico e coperto diventa qualcosa di realmente diverso e di trasgressivo, che una parola così stupida, usata in maniera così stupida da almeno 50 anni, da ragione Moretti, che le parole sono importanti, accidenti. Quella di Paolo Benvenu è canzone d'autore, leggera e profonda nello stesso istante. Quella che vi facciamo ascoltare si intitola Life. La puntata termina qui. Se ci cercate, scrivendo Radio24-la prima volta, ci trovate in tutte le nostre declinazioni, sito web, Facebook e soprattutto puntate da riascoltare. Ciao a tutti da Cristina Carpinelli. Life will never be the same again. It should be in a certain flower, it should be in an aesthetic for you. It should be the vision of a satellite, without pain and discoveries. And if you think this is true, then no matter what you do, no matter what you lose, matters no more. So tonight, the morning comes tonight. Hold me tight. Hold me. Help me. Again. It should be in a certain flower, We'll be right back.